che raccoglie una serie di documenti che raccontano la storia di Oreste, o meglio un progetto Oreste. Era un gruppo di artisti che nel 97 si è incontrato a Paliano la prima volta, organizzando delle residenze in cui si parlava e si discuteva di arte, o meglio del ruolo dell'artista, si raccontavano i progetti, si raccontavano le proprie esperienze, si raccontava il proprio lavoro. E da lì è nato, potremmo dire, un gruppo di lavoro che ha lavorato insieme per poi arrivare nel 99 anche alla Biennale di Venezia. Infatti fu invitato da Zeman, dove non propose opere, ma in realtà una sala dove c'erano dei tavoli e delle sedie e si parlava, si discuteva, quindi fondamentalmente degli incontri dove venivano anche proiettati dei video, dei film, si presentavano dei libri, e in cui la parola sicuramente aveva un ruolo fondamentale, quindi non opere ma il dialogo, l'incontro, la relazione. Oreste sicuramente in Italia può essere considerato tra i progetti che fanno parte dell'arte relazionale, perché andava a riflettere, potremmo dire, in un momento in cui in Italia ancora non c'era un'attenzione particolare al contemporaneo, su quelle che erano le relazioni, potremmo dire, che precedono l'esposizione vera e propria, le mostre, e quindi come avvenivano queste relazioni. Gli artisti in quel momento presero la parola, non mediati né dalle opere né dai critici né dai direttori di musei, per dire quello che pensavano. E Oreste inaugura Bologna nella Project Room, perché nel 97 il primo convegno, come spiegare a mia madre che ciò che faccio serve a qualcosa, fu proprio fatto al Link. E a questo punto non so se loro vogliono, visto che anche Emilio e Annalisa sono stati tra gli artisti che hanno partecipato in maniera più attiva, forse loro potrebbero dire qualcosa in più. Volentieri, vai te, Emilio. Sì, ti piace questa musica Shabada che ti ho messo? Molto, grazie. Questo è Enrico Farnedi con Los Beginners. Sono venuti ospiti 2 settimane fa a fare questa fanste musica qua. Meraviglia. Ho pensato, no, molto Shabada, molto Shabada. Ma è una cosa che secondo me i nostri ascoltatori non solo i nostri ascoltatori, i fruitori di Oreste non capiscono dove sono le opere, no? Perché effettivamente Oreste si è mostrato in vari ambiti, però poi le opere di Oreste quali sono? Opere di bene, no? Esatto. Non fiori ma opere di Oreste. A proposito di opere, in realtà nello spazio che ospita appunto Oreste al Mambo, cosiddetta Project Room, c'è un'opera che è post Oreste, però deriva da Oreste. Chi vi ha partecipato sono stati artisti che hanno anche fatto parte di Oreste. E si chiama L'illustra scultura polimaterica ed è un'opera di Luca Fauso, che è un gruppo che raccoglie alcuni di ex orestiani come Luigi Negro, Giancarlo Norese, io stesso, Emilio Fantin, Cesare Pietro Giusti e poi anch'io, e poi tutti quelli che hanno partecipato. No, io volevo fare una raccolta firme per diventare parte di Luca Fauso, poi non è mai successa, per cui continuo a essere al di fuori di questo. Ma di questo in ogni neo... caso tu sei parte dell'illustre scultura polimaterica, come del resto anche Annalisa, certo, e tanti altri. E di che cosa si tratta? Lo dico subito, che così ci leviamo il peso. Si tratta di una opera aperta, cosiddetta, cioè è un'installazione che si trasforma continuamente, è un'installazione fatta di scarti di opere, di lavori, di qualsiasi cosa, quando, se voi verrete nello spazio ve ne renderete conto. E che cosa noi chiediamo a voi? Chiediamo di portare un vostro piccolo scarto, in modo da sostituire quelli che magari già ci sono e far rivivere quest'opera, che ogni volta che viene presentata al pubblico rivive attraverso questo continuo cambiamento. In particolar modo domenica, però, questo domenica. Questo avviene domenica 14 aprile dalle 11 della mattina alle 6 del pomeriggio. Qualsiasi momento uno voglia fare un salto lì, ci troverà, potremo fare 4 chiacchiere e potremo Del resto, appunto, lo dice la parola stessa, è polimaterica. No, infatti, per me è stato un grande sollievo l'illustre scultura polimaterica, perché sono riuscita a liberarmi di 50 pupazzetti di gomma che non sapevo dove mettere, che però lì hanno ci stanno bene, infatti, benissimo. Sono... E poi al Ludwig Museo di Colonia avevo preso un sacco di planimetrie, spiegazioni di opere plastificate, che anche quelle sono entrate a far parte integrante. Sì, non me ne parlare, perché io ho, quando è arrivata Rita, credo che fosse venuta, esatto, assieme a un suo amico Rita Corredo, assieme a un suo amico con il furgone, io gli ho mollato mezzo furgone, cioè gli ho riempito il furgone di monnezza, perché in quel periodo stavo facendo delle sculture di materiale di recupero, per cui... Però è diventato un assemblaggio veramente bello. Sì, no, quindi al di là dell'ironia andate a vederlo e contribuite. Ecco, contribuite meno di Stefano e Annalisa, perché... Allora avevamo grandi possibilità. No, anche perché c'era un sacco di spazio. Al link era veramente enorme la scultura. No, ma infatti la cosa che devo dire che a me ha lasciato veramente piacevolmente stupito era questa, cioè a chi è venuto in mente di tenerla per tutto questo tempo, perché era il 2009. Scusate ragazzi, questa è una bella storia, perché ovviamente alla fine dell'esposizione della scultura, che era stata esposta appunto parecchi anni fa al Link a cura di Rita Correndo e Alice Militello, certo, l'ha detto giusto. E c'era il problema di dove mettere tutta sta roba, perché in fondo era un'opera di scarti, ma pur sempre un'opera. E che cosa succede? Succede che Anna Scalfi, che tra l'altro è una bravissima artista e che stava a Trento, e dice: guardate, io ho un magazzino molto grande, me l'hanno dato in gestione e posso tenerla lì. E quindi l'opera è stata lì, ed è stata lì per anni e anni e anni. Dopodiché una bella mattina mi telefona un po' disperata e dice: guarda che io qui non riesco più a tenere l'illustre scultura polimaterica perché non ho più il posto, quindi che cosa facciamo, che cosa facciamo, che cosa non facciamo. Allora noi abbiamo pensato: qui è finita, non c'è più speranza. Perché, la doniamo al mambo. Esatto, la doniamo al mambo. E il mambo naturalmente dice: tiè, che me la tengo. Comunque. Allora io mi sono preoccupato di affittare un furgone e assieme a Cinzia, la mia compagna, che salutiamo, che se la ricorda ancora questa cosa, perché... E Anna, ci siamo dati da fare e abbiamo caricato veramente tonnellate di roba che poi la nostra Serena Carbone amica e veramente protettrice Serena ha messo nella sua cantina. Quindi. E a questo punto anche io devo raccontare che a un certo punto ho visto arrivare, la mia cantina non è grandissima, c'è una cantina insomma di medie, piccole dimensioni, ho visto arrivare questo furgone con della spazzatura, scarti d'artista. Garbage. Si raccontare, sì, perché ha invaso tutta via parte di via Vasari, e era già praticamente tra la strada e il marciapiede, e nel momento ero abbastanza sconvolta, anche perché non riuscivo a capire come avremmo fatto entrare tutta quella roba nella mia cantina. Appunto Cinzia ricorda anche una fantastico battibecco, ma da quel momento penso siamo diventate amiche, e io dissi ad Emilio, cioè proprio sconfortata: ma è il caso di tenerla? E io ricordo perfettamente la risposta di Emilio, che era tranquillo, una plomba, mi disse: è un'opera di artisti, quindi sono gli artisti che decidono quando un'opera si deve buttare e quando si deve conservare. Punto. Da quel momento si è messi lì e l'abbiamo conservata. 333 180 94 94 se ci volete messaggiare e avete domande su Oreste, siamo qui live stasera a rispondervi. Ascoltiamoci Can't Get di Trickstar e Scaramucci, che ci è arrivata dalla Boom Rush Productions, che siccome loro ci vogliono bene ci mandano sempre dei gran pezzi reggae così per da suonare a Coxo Spaziale. Bibbidi-bibbidi-bombs game. Tell them! Chim-chim! Lo rimetto perché si è sentito male. Play again. Ci abbiamo anche i jingle noi, eh? Hai visto? Siamo organizzatissimi. Dicevamo, stavamo parlando di questa illustre scultura polimaterica che dovrete venire a vedere, anzi ne approfitto per dirvi che il Mambo in questa occasione l'ingresso è gratuito, per cui sappiate che domenica per venire alla Project Room del Mambo potrete avere l'ingresso gratuito dalle 11 alle 18. Questo è, e per vedere appunto questa illustre scultura polimaterica. Aspetta che c'ho un messaggio, dice manda foto, ok, sì, no, questo è il nostro Oscar Moroni, detto anche Gifo, che vuole, quando sente delle voci femminili, vuole sempre vedere che le facce dei nostri ospiti. Stasera non ci siamo fatti il selfie prima di partire, per cui Gifo vai un po' a vedere nel profilo Annalisa Cattani, no, a vedere che lei sicuramente, cioè, presumo che tu abbia già postato una foto di noi, ecco, no, immagino. Ma dunque cosa succede? Ma si parla anche domenica oppure si lavora solo sulla scultura? Ma no, ma si parla, ma perché, cioè, lo spazio Oreste è sempre stato uno spazio in cui non si è fatto nulla in pratica, se non stare assieme, parlare, sognare, fare le feste, parlare dei progetti, mettere assieme gente che voleva fare dei progetti, chiamare altre persone. Cioè, quello che ha fatto Oreste è sempre aprire uno spazio all'interno del quale far accadere delle cose. Non c'è mai stata nessuna... Infatti, voglio dire, non è che neanche le persone in qualche modo partecipavano ad Oreste, ma cooperavano, cioè ognuno metteva qualcosa di suo. Poi non è che uno era affiliato ad Oreste, poteva scomparire per anni e poi ricomparire, no? Questa era la cosa interessante di quella. Però forse era proprio la meraviglia, è nata proprio di lì. Cioè, per me è stato, io lo dico sempre, ho la parola l'imprinting, no? Come Conrad Lorenz, che viene seguito dalle paperelle. Allora io ho seguito inizialmente questo invito a una vacanza, di fatto era una settimana per stare insieme, ma non è più così scontato. Al di là che ho perso la voce, quindi non so se riuscirò a finire quello che ti sto per dire, però che forse per noi è una fortuna, è una fortuna, è una fortuna. Però il bello era proprio di scegliere questa settimana dove facevi parte di un gruppo, però senza essere un collettivo, che implica sempre una comunanza comunque di idee, di obiettivi, di intenti, senza essere un singolo. E lì la cosa bella per me è stata, essendo uscita da poco anche dall'accademia, quindi eri un po' out of the blue, non sapevi bene dove andare a parare, conoscere in una maniera familiare, e non è più così scontato anche quello, cioè conoscere in modo familiare per la curiosità di esserci, di mangiare insieme, di fare un'esperienza culturale. Si divide sempre l'esperienza culturale dall'esperienza familiare, invece lì è stato un tutt'uno. E per me averlo vissuto in un certo periodo importante della mia crescita ha creato un precedente, per cui per me è l'unità di misura dello stare bene, sia all'interno di un sistema, sia all'interno di un percorso culturale, dove la cultura ti fa star bene, anzi non hai neanche più voglia forse di chiamarla cultura, la chiami, come dice Emilio, un'esperienza, una varietà. Allora bello per quello, dove l'opera diventa una partecipazione, no? Ma la cosa interessante era che, cioè, descritta così potrebbe sembrare, come era in effetti, un posto un po', diciamo, di grande frequentazione giovanile, ma di questi giovani pronti a stare assieme, a divertirsi assieme. È vero, era così, però c'erano anche delle altre figure, anche certo, anche alcune anche già famose, no? Esatto, sì. Appunto. Perché, e quello è, diciamo che sicuramente per noi che, cioè, cominciavamo, è stata, cioè, sicuramente la differenza è questo, cioè, no, mi viene in mente adesso Michelangelo Pistoletto è stato qui in questi giorni, lui sicuramente carinissimo, però comunque è una figura che non è che chiunque può andare ad avvicinare semplicemente perché è in giro a Bologna, cioè sicuramente comunque la gerarchia è palesissima, no? E non è facile entrare non dico in confidenza, però comunque conoscere persone che magari ti piacciono anche nel mondo dell'arte, anche in un mondo dell'arte abbastanza piccolo come quello italiano. No, lì era bellissimo, per esempio, a me viene da citare Phil Niblock. Phil Niblock, che era questo, a parte, vabbè, i misunderstanding che c'erano, per cui lì che mangiavi dicevi ma chi è quello là, perché c'era innanzitutto un incontrarsi in modo molto amichevole prima, certo, di sapere chi era chi, no? Chi era chi, esatto. Allora, però dopo un po' dovevi chiedere chi era chi se gli volevi parlare, certo. Allora mi dicono ma chi è? È un curatore tedesco, quindi vado lì, gli parlo in tedesco e questo mi risponde in inglese, fa guarda io il tedesco non lo capisco. E quindi dopo salta fuori che era Phil Niblock, questa persona mitica, un artista che fa visual artist ma che fa musica sperimentale. Una volta, quando io sono andata a New York, un amico di Emilio, e persona di grandissimo spessore, bravissimo, famoso, conosciuto, ma di un'umiltà incredibile, che è stato per anni dopo un contatto fondamentale, quindi sia a livello proprio pratico sia a livello culturale, cioè nascevano, per quello che io dico imprinting, perché delle relazioni che nascevano in una maniera spontanea, empatica, e diventavano vere. Poi alcune le perdevi per strada, qui si, no? Potrebbe aprire tutta una parentesi sul concetto di tirarsela nel mondo dell'arte contemporanea, perché è una cosa veramente inquietante, no, questo, ma infatti, questa ciò, metodologia che abbiamo, esatto, che ciò, abbiamo qui in provincia, no? Cioè ciò che rappresentava una condizione essenziale, che era quella, diciamo, appunto della chiusura della categoria all'interno del mondo dell'arte, e quindi dei confini, e quindi delle gerarchie, del verticismo, se vuoi, e lì in Oreste invece cadeva per una semplice condizione di rapporti, E quindi in questo magma passavano persone che altrimenti, se tu le avessi dovute incontrare o frequentare all'interno del mondo, diciamo, dell'arte, avresti dovuto seguire tutta una serie. Ed era appunto il momento dello stare insieme, però il momento anche della coincidenza e il momento della non produzione ma dell'accadimento. Esatto, no? Infatti ti volevo proprio chiedere questo, ma è il motivo di questa diciamo simpatia orizzontale era la mancanza di un intento comune, cioè in realtà veniva proprio dal non dover fare nulla insieme, no? Perché adesso sembra quasi impossibile che, no, vedersi nel mondo dell'arte senza dover organizzare un progetto o qualcosa del genere, cioè senza una scusa per costruire qualcosa insieme. No, ma infatti questo è una cosa molto interessante secondo me, perché qui si sta parlando degli anni 90, sì, quindi certo. È così il concetto del mezzo senza fine, no? Un po' questo concetto che anche tanti filosofi hanno elaborato e studiato, ed è stato un po' proprio così, nel senso che non c'era effettivamente uno scopo in quello che facevamo se non quello di aprire degli spazi, ma degli spazi anche virtuali o degli spazi astratti, non aprire uno spazio come apri una galleria, certo. Aprire degli spazi in cui le persone potessero abitare, vivere e anche ideare, ecco, questa è... Beh, citiamo a questo punto anche Montescaglioso, perché aprire degli spazi però voleva dire anche andavi in Basilicata, in questo antico monastero che era stato per tentativi ristrutturato male tutto, si adottava per un periodo, si stava lì e il paese ti dava le case. Quindi improvvisamente tu arrivavi lì e quelli del paese davano ad ogni artista un appartamento, perché noi eravamo lì e stavamo lì a fare una residenza. Cioè, adesso con Airbnb ti danno. Esatto. Però era bello il fatto che veniva percepito il valore aggiunto dello stare insieme. Quindi diventava non una community social, ma una comunità. Devo dire che un po' quell'atmosfera l'ho rivissuta quando c'è stato il premio a Suzzara, appunto il No Place al premio Suzzara, dove appunto tutta la cittadina era preparata per accogliere queste migliaia di artisti che non si capisce bene da dove uscissero, perché alcuni proprio non... Un'altra cosa che vorrei dire, che secondo me è molto interessante, è che a parte che Oreste nasce con l'email, no? Certo, perché erano quegli anni lì, esatto. quando ancora nessuno aveva internet. Esatto, nasce con questa nuova tecnologia che per noi era veramente la cosa più nuova a cui potevamo accedere, e questa ha fatto sì che nascesse un network di persone da tutta Italia e poi anche fuori d'Italia. Ma che cosa ha significato questo? Ha significato che, per esempio, molte persone del sud sono entrate in relazione con questi progetti, perché non era facile allora, cioè il sud era tagliato fuori, certo. Ma a parte Napoli un po', che aveva avuto una grande storia dell'arte contemporanea. E noi abbiamo fatto lì Montescaglioso, ma poi ci sono stati progetti appunto a Napoli, ci sono stati progetti in Calabria, ci sono stati molti progetti nel sud, quindi è stata un'apertura interessante anche da quel punto di vista. E poi c'è appunto tutta questa storia della tecnologia che è interessante, magari non so se Serena... Ma infatti, no, due cose volevo dire. Uno sulla... ricollegandomi a quello che dicevate prima, faccio un passo indietro sul fatto che ci si incontrava spontaneamente, un aneddoto insomma premostra che oltre che ringrazio un sacco nell'organizzazione, oltre a Lorenzo Balbi, voglio dire, che ha reso possibile questo, anche Sabrina Samori e Anna Rossi, che mi hanno affiancato nelle settimane, diciamo, di allestimento. E quando guardavamo il materiale, in particolar modo le foto che ci sono, noi dicevamo, ma allora, cioè, questi si divertivano un sacco, cioè nel mondo dell'arte, cioè, noi siamo lì, era un altro mondo, esatto, dell'arte. Di quello che dicevi tu, sempre lì a pensare, oddio, no, tutta questa, come mi muovo, come, esatto, mi vesto, come mi comporto, ma che, insomma, voglio dire, si divertivano. Detto questo, a proposito della geografia, cioè noi abbiamo secondo me una parte sette poi che restituisce quello che è stato nella brochure che è stata prodotta. Sì, anzi devo farti i complimenti perché hai fatto un lavoro veramente ottimo, me la sono letta tutta e devo dire che me la sono veramente goduta. Grazie. No, più che altro perché oltre al testo introduttivo credo che l'intervista sia uno strumento fantastico per continuare a far parlare l'altro in prima persona, e quindi le interviste che ci sono a vari artisti che hanno preso parte alle Oreste parlano di tutte queste sfaccettature, ed è bello anche perché non c'è mai una risposta univoca. Sì, no, infatti ci sono punti di vista quasi divergenti. Però la questione della geografia, era questo che volevo dire, che mi sembra che sia Cesare che l'abbia detto, Cesare Pietro Iusti. Allora, siamo nel 97, quindi in Italia ancora avevamo, il centro era Milano. Sì. Come molte gallerie erano a Milano, Bologna per altre questioni era sicuramente un punto importante, più per gli spazi autogestiti, l'Accademia e il DAMS, Roma relativamente, quindi nasceva anche proprio per decentralizzare da quelle che erano le capitali poi delle gallerie, ma legate anche al mercato. Quindi Oreste, almeno anche quello che hanno raccontato, poi si installava in luoghi dove poteva avviare un altro tipo di relazione che non passasse da quelle canoniche che si potevano trovare appunto nelle gallerie milanesi, per esempio. Ed ecco la decentralizzazione, ed ecco il sud che entra sicuramente in questo circuito. Le mail poi assolutamente sono una parte interessante, che poi secondo me anche con l'intervista di Andù, perché poi è interessante il fatto che dal 99 l'interfaccia di Oreste diventi Andù.net, quindi premiata ditta, quindi Anna Stewart e Vincenzo Chirandà. Infatti loro dicono bene questo passaggio, loro dicono: noi arriviamo in un momento in cui la rete non era vista soltanto da un punto di vista informativo, ma noi partecipavamo alla costruzione della rete attraverso per esempio forum. Quindi era proprio un'altra, ancora non eravamo al 2.0, era l'internet, no, certo. Esatto, 1.0, per cui c'era proprio un elemento in cui dice: noi costruiamo la rete perché partecipiamo a questa rete, siamo, come dire, condividiamo realmente. Poi, certo, nel 2001, fra virgolette, Oreste muore, ma il fatto secondo me è che sia... ecco, ritornare oggi ha un suo valore, non tanto di storicizzare un qualcosa che secondo me ancora è un po' impossibile da fare. I progetti di Montescaglioso sono andati più avanti. Esatto, ma l'idea è anche questo, che a proposito di quello che si diceva prima, Oreste ha avviato in Italia perlomeno quella che poi è la pratica della residenza. Che sì. poi è stata istituzionalizzata, quindi anche tante pratiche che in Oreste sono nate in maniera spontanea. E poi sono state invece acquisite dall'istituzione, sono state fatte proprie, prendendo poi delle strade anche diverse. Quindi anche fare un punto, ecco, secondo me è importante, non tanto sì storicizzare, ma fare un punto su quelle che sono determinate pratiche, come le residenze o per esempio le realtà no profit o indipendenti. Ma anche il forum dell'arte contemporanea, esatto, assolutamente, esatto. Cioè quel tipo di dibattito, esatto. Quel tipo di bisogno di sentire, fra l'altro appunto ne parlavamo 2 settimane fa, se non sbaglio, che c'era anche stato, 10 anni fa, no? Il falso Oreste, sì, sì. Ovvero si era sentito il bisogno di fare il punto, ed era successo alla Sala Ara qua a Bologna, se non sbaglio nel 2009 o 2010, proprio per un po' avere il polso di quella che è la situazione, no? Parlare tutti insieme di qualcosa sicuramente fa bene a tutti e fa bene alla cosa stessa, no? Ma soprattutto creare un tempo medio, cioè quello che manca in Italia, perché anche quello che si diceva, no? si creava questo spazio della condivisione dell'esperienza, che al di fuori magari di ambiti di sistema, che non voleva dire negare il sistema, cioè totalmente, nel senso che in quel modo lì si sono creati anche dei rapporti che dopo sono stati anche dei rapporti di lavoro, dei rapporti dentro e fuori il sistema, però più sani all'inizio, e dopo hanno portato anche a dei lavori, a dei percorsi più fruttuosi da tutti i punti di vista. Cioè tu potevi entrare anche in contatto con curatori, galleristi, però in un altro modo. Quando io parlo di tempo medio, parlo di quello che magari all'estero viene creato con le Kunsthalle o con i frac in Francia. Però Oreste andava oltre, cioè un tempo che dopo che sei uscito dall'Accademia non vieni lanciato così a piede libero sul mercato, ma è un periodo di fare un po' sedimentare la tua ricerca, di trasformarla in dialogo, e questo è molto importante. C'è bisogno di spazi di condivisione che adesso sono diventati quelli delle residenze. E dunque in questi incontri comunque gli artisti mostravano il proprio lavoro agli altri, giusto? Perché sì, questo, cioè, naturalmente i nostri sì, radioascoltatori non è che lo possono, sì, diciamo, sapere. Che ci sono state delle fasi. La prima fase è quella di Pagliano, in cui appunto gli artisti arrivavano, era un ex villaggio per atleti completamente abbandonato. E arrivavano gli artisti e si sediavano lì, stavano lì, e poi alla sera dopo cena c'era la presentazione di lavori, ma tutto si svolgeva in un'atmosfera completamente rilassata, tranquilla, e come diceva Annalisa, lì hai una possibilità in più anche di parlare del tuo lavoro, perché il colloquio, la discussione, anche il rapporto con le persone ha un'altra forma. Non per essere sempre, diciamo, contro l'istituzione o contro determinati diciamo, regole o comportamenti, però effettivamente, soprattutto quando gli artisti erano molto giovani, tutto questo aiutava anche perché fra i giovani poi c'erano quelli più esperti e si dialogava, si diceva: ma guarda che forse questo lavoro potrebbe avere un accento in più, oppure si diceva: ah, fantastico. Quindi era veramente una condizione ideale, secondo me, dal punto di vista pedagogico proprio, anche senza che noi lo sapessimo, perché tutto nasceva così, una sorta di palestra del pensiero, come... La cosa interessante è che in Oreste non c'è mai stato un soggetto, anche quando noi lei dice Oreste o questo fa quello, fa quell'altro, in realtà Oreste è un nome proprio, ma è proprio un paradosso, perché tutti i progetti di Oreste sono progetti di persone che indipendentemente hanno a loro volta fatto qualcosa passando per Oreste, ma poi anche sviluppando personalmente delle cose che magari sapevano solo loro, e c'erano, come dire, tanti rivoli e tante condizioni che portavano poi il senso di Oreste a disperdersi. Dopodiché vi chiederò anche da dove viene sto nome, ma fra un po'. Saturday, cosa vi raccontate? No. Aspetta, che nel frattempo stavo copiando. Coxo spaziale. Io stavo copiando questa menzione che mi è arrivata live da Giffo, dal nostro unico ascoltatore. Allora, siccome appunto lui è il nostro unico ascoltatore, mi sembra giusto, perché voi dovete sapere che Coxo Spaziale a un certo punto ha questa rubrica, è una rubrica abbastanza bislacca così, che si chiama L'angolo della menzione. Esatto, dopodiché appunto nell'angolo della menzione menzioniamo che cosa succede nei prossimi giorni, e dunque in realtà ci sono un po' di robe. Stasera hanno inaugurato un sacco di gallerie, per cui hanno inaugurato stasera, la settimana scorsa non c'eravamo, per cui non le menzioniamo. Comunque erano Cardrd, la P420, Galleria Più e Locale 2. Fra l'altro devo dire che mi è piaciuta molto, voi non avete visto niente perché eravate da tutt'altra parte, e lo so. E invece domani alle 11:30 c'è Termos, suoni e frequenze confortanti, ambienti visionari, cioè alle 11:30 di mattina, mi sembra di aver capito. Questo è a DAS, dispositivo arti sperimentali, che sono amici vostri, giusto? Sì. Via del Porto 11-2 a Bologna. Sono almeno 22 spazi che si sono uniti con anche ex studenti, persone molto giovani, molto bravi. Sai già tutto tu. Comunque questa cosa c'è domani, e comunque da domattina su www.coxospaziale.blogspot.com trovate tutto quello che di cui stiamo parlando, che come al solito di solito non si capisce niente, perché quando lo leggo io invece sempre domani alle 18:30 tutti inauguravano stasera, e invece Esther Grossi ha deciso di inaugurare domani con la mostra personale chiamata Essenziale, allo spazio Testoni. C'ha un nome stranissimo sta galleria, Spazio Testoni LA 2000 più 45, questa è in via D'Azeglio 50. Ho scoperto che lo Spazio Testoni era la vecchia Galleria 2000, dove la Marina Abramovic faceva le performance, dove c'è stata la performance di Fabio Mauri, dell'Ebrea, eccetera. E comunque Esther Grossi è un'artista con la quale Spazio Testoni collabora da diversi anni, e insieme hanno condiviso un percorso bla bla bla bla bla bla, e il suo inconfondibile uso del colore l'ha resa protagonista nei wall painting in dialogo con le opere dell'artista tedesca Ingeborg, cioè un nome impronunciabile. Devi farlo leggere a me. Te lo dovevo leggere. Comunque stavolta insomma è una mostra personale, si intitola Essenziale, per cui non mancatela, inaugura domani alle 6:30 di sera. Poi invece Giffo mi ha detto che alle 21 bisogna andare, adesso vado a vedere direttamente sul Facebook questa cosa che adesso devo capire che cos'è, si intitola Superficie in R4, adesso non so se la R4 è una Renault 4 o che cosa, è una lettura in forma scenica, il quarto appuntamento della nostra rassegna è sull'orlo del precipizio che l'equilibrio è massimo. Partiamo dal personale, tendiamo all'universale, dal concreto al metafisico, dal piano psicologico a quello trascendente, dalla narrativa alla poesia. Sembra una di queste cose in cui non si capisce niente, però secondo me è interessante. Di e con Irene Curto. E questo è al Camere d'Aria in via Guelfa 40/4 a Bologna. E questo era sabato, mentre invece naturalmente domenica quello che succede e che ci occupa tutta la giornata è naturalmente appunto l'appuntamento domenicale con il Mambo, con No Oreste No, che questo è il nome della mostra, tra l'altro non l'avevamo menzionato nella Project Room. E domenica 14 dalle 11 alle 18 è il momento di Miracolo ISP. Perché si chiama ISP? Perché ovvero l'illustre scultura polimaterica, con l'aiuto di Anna Scalfi, dopo averla salvata da morte in discarica, risorge a nuova vita attraverso la passione di chiunque voglia rivitalizzarla. Dopodiché c'è tutta la lista di tutti i nomi di tutti quelli che hanno partecipato, e naturalmente la lista si allungherà con con cosa dovete raccontare di domenica. Tu ci sei, Annalisa, o hai una comunione, un qualcosa di... Potrebbe essere una bella, bella qualcosa di indecente. No, però la cosa importante che dicevo con Serena, gli incontri sono stati molto belli e ci sarà appunto questo incontro dalle 15 alle 17. Vai tu, se... Allora, gli incontri sono stati... perché sì, infatti. No, infatti poi... Hai partecipato anche tu. Abbiamo anche menzionati a Coxo Spaziale. Sì, perché alla spesso fine... volentieri. Bene, perché nel momento in cui noi abbiamo esposto l'archivio, ovviamente una parte di Oreste, quella, la parte viva necessariamente è venuta meno, anche perché avevamo i documenti, quindi di per sé carta, parole stampate, per cui per dare di nuovo voce alle parole abbiamo pensato a degli incontri che si sono tenuti ogni domenica dal 7 marzo, da quando abbiamo inaugurato, fino a domani, e poi avremo una pausa per Pasqua e il ponte il 25 aprile. Riprenderemo con l'ultimo incontro il 5 maggio, in cui parleremo degli archivi digitali con Mario Gorni di Care Off e Premiata Ditta. E gli incontri sono stati il momento in cui abbiamo di nuovo, fra virgolette, dato vita ad Oreste. Sono stati pensati, tra l'altro, non si è parlato, ecco, non sono stati degli incontri in cui si è parlato di Oreste, ma più che altro sono state invitate delle persone che anche non hanno mai partecipato ad Oreste, ma che hanno portato avanti la modalità in qualche modo che Oreste infatti bisognerebbe chiedere all'Accademia della Crusca di aggiungere orestiano come aggettivo, no? Orestiano. Esatto. Ma il nome Oreste, tu lo sai benissimo, Serena, perché lo so che hai chiesto a tutti da dove. Ma io credo arriva. Che io la versione che ho, che poi cambia anche quella, è tra Mario Pieroni e Cesare Pietro Iusti, perché in realtà un'altra persona che non abbiamo menzionato, ma che è uno degli artefici di Oreste, in realtà è un gallerista, ecco i paradossi di Oreste, certo, le contraddizioni di Oreste. Perché i primi incontri a Pagliano sono nati proprio dal dialogo tra Mario Pieroni, Dora Stiefelmeier, che hanno tuttora l'associazione Zerinzia, con Cesare Pietro Iusti, che a sua volta veniva fuori dalle spera molto legata al gruppo di Piombino, quindi a Salvatore Falci, che voleva, fra i tanti, e quindi che volevano in quel periodo organizzare un convegno in cui gli artisti prendessero la parola. Parlandone con Mario Pieroni hanno detto: ma perché no? E allora a Pagliano lui si è resa disponibile la foresteria. Conosceva il sindaco. Esatto, perché lui conosceva il sindaco. E mi sembra, almeno dalle interviste, se dicesse che Mario, che era un discorso tra i due, come lo chiamiamo, perché no, tipo passa un gatto, ma Oreste, da Mario Pieroni, e da lì a sì. E poi mi sembra che Cesare aggiunge, perché Oreste, nella parola Oreste è implice la parola, le lettere di rete, mi sembra. Comunque non è importante del genere, però insomma sì. Il gatto Oreste, ma credo che invece secondo me per storicizzare bisogna inventarsi una, cioè, no, il gatto Oreste che poi dopo eccetera eccetera, perché comunque c'è sempre bisogno di una, soprattutto per gli ascoltatori c'è sempre bisogno di una storiellina. Passonda. Ecco, esatto. Assolutamente, perché appunto Oreste è intarsiata di piccole gemme. Una appunto è la festa Basson, ma c'è stato anche il convegno a Link, come far sapere a tua mamma. Spiegare. Che Giancarlo Oreste, se no... Che quello che faccio serve a qualcosa. È stato un altro momento bolognese molto, molto forte, molto interessante, perché Oreste ha... vissuto molto qui a Bologna, perché probabilmente perché molte persone ne facevano parte, ma anche perché a quei tempi Bologna era piuttosto viva, e mi dicono che è viva anche adesso, poi tu lo sai meglio di me. Comunque allora ma diciamo che si sta un po' ravvivando sicuramente. No, adesso che sia viva tanto quanto non saprei, perché io non ero a Bologna negli anni di Oreste, per cui... E comunque per così rinfuocare l'immaginario e proiettarvi in una cosmogonia di colori e di lustrini, immaginatevi Annalisa Cattani con una parrucca fluorescente blu. Ok. Immaginatevi una Luisa Perlo con la gonna al posto della camicia e le calze al posto dei guanti. E questa era la festa passata. Sì, perché lì fu un modo, tu dici, di tirarsela, no? Perché anche a Oreste poi c'erano dei momenti che sembrava che qualcuno se la tirasse, okay, no? Allora andava subito smitizzato. E quindi veniva immediatamente coniata la parola tra me e Ferdinando Mazzitelli da una specie di litigio. Dicevo, beh, vabbè, allora adesso tutti devono essere invitati a una festa passon, dove tutti facevano finta all'inizio un po' di aver capito, in realtà ti si doveva vestire passon, creare dei balli passon, quindi tutti arrivarono alla sera passonissimi senza capire che cosa fosse questo passon. E sono nati dei balli fantastici. Quello che mi ricordo di più è il trenino da sdraiati. Che okay, quello è veramente un bello simoro. E già che si ricorda qualcosa, esatto, no? Infatti, perché mi chiedo la quantità di alcol che girava, quale fosse. Bastava l'entusiasmo. Poi c'era un grande DJ, Filippo Falaguasta, che tuttora ci. No, veramente. E poi c'era bello. il mitico Pino Boresta, che ho incontrato a Milano, certo, la settimana scorsa. E, che lui è stato aveva fatto l'album di figurine di Oreste, di cui abbiamo una copia fotocopiata sfogliabile al Mambo in questo momento. Certo. Ma anche possibile anche la festa passona alla Salara, anche dopo l'abbiamo fatta, sì, nella sala che occupavamo, sì, mezza Salara con la festa passona, con i premi per i galleristi, un cibo per cani. Scusi, no, figurati, perché stiamo ricordando, non abbiamo anche citato Giancarlo Norese, certo. Tra l'altro Giancarlo, esatto, è anche lui personaggio chiave di Oreste, esatto, anche io ho scoperto dell'esistenza di Oreste da Giancarlo quando lo incontrai a New York nel 99, appunto, perché tra l'altro è stato Giancarlo che poi Emilio mi dirà meglio, è una sorta di titolista, potremmo dire, perché con lui che ha dato poi Noreste, no, è stato Giancarlo, sì, è stata al bar Noreste, no, che era, mi sembra, ricordo, ecco, è un titolo fantastico, ma sì, perché poi aveva a che fare, a un certo punto è uscito fuori come intitoliamo la mostra, nonno Oreste non stava molto bene, quindi certo. nonno Oreste fra due o tre, non dico mostre, ma fra due o tre occasioni, secondo me nonno Oreste potrebbe, sì, cominciare, ma abbiamo dei figli adolescenti. Esatto. No, devo dire che come titolatore Norese non scherza niente. E anche il convegno dell'Inc, giusto? È anche Sueda. Il convegno, sì, dell'Inc, sì, che rappresentava appunto tutti questi ragazzini in fondo, no? Che avevano questa domanda che premeva. E c'è ancora oggi, rispetto, sì, no, so, a chi sceglie le scienze umane o a chi sceglie degli ambiti artistici, no? Come spiegare a mia madre che quel che faccio serve a qualcosa, che è comunque una domanda che adesso si può fare a tutto tondo su tutte le discipline, non più solo su quelle. Però, per l'arte, però è importante, è particolare, perché non si limita solo ai ragazzini, ma poi continua anche quando tu hai 50-60 anni, questa domanda te la fai sempre. Esatto. Perché tua madre comunque non ha mai capito. Esattamente. Esattamente. Per non parlare del fatto che la madre in Italia, per esempio nel convegno c'era anche l'intervento di Bruno Esposito, che diceva come la madre simboleggia anche un po' l'istituzione, quindi, esatto, quindi c'è tutto un discorso sul riconoscimento, sul ruolo dell'artista in Italia, che sappiamo essere, che poi comunque chiudo, per me c'è anche un altro titolo geniale che non ricordo quale presentazione fosse alla Biennale, che era perché mi sottopongo a questo disagio. questo direi che sicuramente è molto, è molto contemporaneo. Ahimè, il nostro tempo è finito, cioè mi sembra che siano 5 minuti che noi parliamo di Oreste, invece ne sono già passati 57 e vi devo ringraziare e salutare. Naturalmente diamo appuntamento a tutti domenica dalle 11 alle 18, giusto? Alle 18 ci buttano fuori. Dalle 11 alle 18, per cui non lo so, qualcuno porterà da mangiare, come funziona? Perché poi purtroppo secondo me non contate su quello, dai. No, infatti, difficile. Differentemente dai tempi di Oreste, dove si mangiava sempre in continuazione. Anche alla Biennale ti ricordi. Avevamo cambuse e anche l'Oreste esproprio. Ah, l'esproprio di Orestiano, allora, cioè andavi al bar, esatto, e dicevi, esatto, paga Oreste. No, per esempio no, entravi alla Biennale dicendo io faccio parte di Oreste, sono entrate di migliaia di persone. Molto bene, e a questo punto io ringrazio Emilio Fantin, Serena Carbone e Annalisa Cattani. Grazie a te. Io ero, grazie, Stefano W. Pasquini, e questo era Coxo Spaziale, e vi lascio con le solite parole del nostro direttore di radio che dice... Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.